13 novembre, giornata mondiale della gentilezza. Ok, se nel 1998 il World Kindness Movement di Tokyo ha pensato di istituirla è perché pensava che effettivamente ce ne fosse bisogno. Sicuramente di gentilezza ce n'è sempre bisogno. Ma secondo voi, nella lotta tra gentilezza e cattiveria, chi sta vincendo? Perché sono tanti quelli che pensano che nel mondo d'oggi la gentilezza ormai sia morta e defunta e che sia soltanto un mondo di pescecani in cui si cerca gli uni gli altri di sbranarci a vicenda. Io non la penso così. Penso che abbiamo bisogno di uno sguardo più attento, più profondo, per accorgerci che intorno a noi ci sono ancora moltissime persone che giorno dopo giorno cercano di essere gentili. A che cosa ci serve questo sguardo? Per ammirare queste persone? Non credo proprio che a loro interessi qualcosa. Più che altro per cercare di imitarli, per cercare di fare anche nostro il loro stile di vita. Ecco 14 esempi di persone gentili. Sicuramente vi verranno in mente molti altri esempi. Aggiungeteli nei commenti se vi va. Ci sono ragazzi giovani o anche diversamente giovani che sanno suonare uno strumento e cantare. E allora magari vanno in una casa di riposo per anziani ad allietare il pomeriggio di persone che diversamente starebbero tutto il giorno su una sedia a guardare la televisione o anche peggio, dormendo tutto il giorno. Ci sono gruppi di volontari che alla sera, invece di stare a casa loro al caldo sul divano a guardare la televisione, vanno nei posti magari più distanti, più bui della città, a portare qualcosa da mangiare, a portare soprattutto un po' d'amicizia alle persone senza dimora e soprattutto li chiamano per nome, gli stringono la mano, lo stanno ad ascoltare, lo ascoltano senza pregiudizi, stanno a sentire le loro storie, perché penso che ascoltare una persona che altrimenti per tutto il giorno si sente invisibile valga molto di più che distribuire 100 panini e 100 bicchieri di latte caldo. Tra quei volontari poi ce ne sono alcuni che ricordano il nome di tutti i poveri che incontrano e quando li incontrano li chiamano tutti per nome, uno per uno. Pensate quanto fa piacere a noi quando ci sentiamo chiamati per nome. Pensate quanto può far piacere a una persona senza casa incontrare un volto amico che lo chiama per nome ogni volta che lo incontra. Quando i nostri genitori ci servivano a tavola per primi, dandoci sempre la coscia di pollo più grande, tenendo sempre per loro la più piccola, non era anche questo un gesto di amore e di gentilezza quotidiano? Quel medico che non si è limitato a guardare il referto e a prescriverti la cura e il farmaco, ma ha cercato di spiegarti qual è il tuo problema. E si è accorto che tu non l'avevi capito bene, non avevi magari neanche il coraggio di chiederglielo e lui nuovamente te l'ha spiegato in modo più semplice con ancora altre parole. Perché in fondo che cosa ci aspettiamo da un medico? Che sia competente, certo, ma che possa sempre risolvere tutto? Che faccia miracoli? O ci aspettiamo prima di tutto che sia una persona umana? Entri in un negozio, cerchi quell'articolo non c'è. Il negoziante ci pensa un attimo e poi ti dice: aspetti, se magari va in quell'altro negozio due traverse più avanti, vedrà che potrà trovarlo, forse lui ce l'avrà. A proposito di medici, dimenticavo che c'è anche quel medico, questo è proprio incredibile, che si sforza di scrivere la ricetta in modo che anche tu, comune mortale, possa capirla. Non soltanto i farmacisti, che per diventare farmacisti devono superare anche un esame di crittografia medicale, ma si sforza di scrivere quello che devi prendere in modo che anche tu possa capirlo. Quelli non sono medici, sono eroi. Sono in un paesino, in uno di quei negozietti che hanno di tutto, dalle bolle di sapone alla toma valdostana. E presento il mio cartone di uova, il negoziante, prima di ridarmelo indietro, apre il cartone e controlla che nessuna delle uova sia rotte. non doveva farlo, non era tenuto a farlo, non gliel'aveva chiesto nessuno, ma l'ha fatto per gentilezza. Don Piero ricorda il compleanno di tutti i suoi parrocchiani e anche di tutti i suoi ex parrocchiani, ma la cosa incredibile è che tutto questo lo fa da sempre, non soltanto da quando Facebook ti manda la notifica per dirti che il tuo amico festeggia il compleanno. Quell'insegnante che ben oltre il suono della campanella si è fermato per spiegarti per bene una cosa che non avevi capito. Nel gruppo di amici poi c'è sempre quello che quando si accorge che c'è un'atmosfera un po' pesante tira una battuta per sollevare un po' il morale e per riportare un'atmosfera più distesa. Quel meccanico che sai benissimo, te lo senti, che ti aiuterebbe con l'auto rimasta in panne anche se fossero le 19:59 della vigilia di Natale. Quella persona anziana in coda al supermercato davanti a me che si è accorta che io avevo due sacchetti molto pesanti e mi ha fatto passare avanti per mettere la roba sul rullo. E infine quel ferramenta che ti ascolta quando tenti di spiegargli quel problema che hai con quel ripiano della dispensa che non riesci a fissare bene. E per 10 lunghi, interminabili minuti tu cerchi in qualche modo, senza usare la terminologia corretta, a spiegargli qual è il tuo problema. E lui ti ascolta con pazienza e alla fine capisce che ti serve una vite di 46,5 mm. Allora va di là, si infila in uno di quei corridoi infiniti che ci sono nei negozi di ferramenta. E cerca in uno di quei 1000 cassetti in cui sono disposte viti di qualunque misura e qualunque tipo, la prende, ritorna al bancone con te, prende l'immancabile volume di pagine gialle, strappa una pagina, fascia la vite, te la dà. Tu gli chiedi quanto le devo, ma niente, vada pure, buona giornata. E poi ci sono quelli che non fanno nulla di particolare, non fanno niente di più rispetto a quello che facciamo tutti i giorni. Accompagnano i bambini a scuola, rispondono al telefono, fanno le pulizie, vanno in ufficio a lavorare, ma fanno tutto questo con estrema gentilezza e delicatezza. Sono persone che danno di più di quello che sono tenute a dare e non lo fanno perché si sentono in dovere di farlo, ma semplicemente perché per loro la gentilezza e la bontà sono diventate un secondo abito. Viene loro spontaneo, naturale comportarsi così. Ci sono infiniti modi per essere più gentile. L'importante è che troviamo quello che fa più al caso nostro, quello più affine rispetto alla nostra sensibilità e che ci proviamo. Se ti ha trasmesso la voglia di essere più gentile, condividi questo video e iscriviti al canale.